Buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori di Radio Città Fujiko. Oggi siamo qua con Elisabetta Galetti, in arte Lil. Ciao Lilli. Ciao. Che è una cantautrice bolognese e anche amica in questo caso. La intervistiamo perché, insomma, così ci parla un po' della sua esperienza da cantautrice finora. E intanto come sta andando? Come ci si sente ad affacciarsi su un panorama così vasto e anche forse un po' spaventoso? Tanto grazie Giulia per avermi invitato. Grazie bello. A te per essere qua. Allora, in realtà adesso ho ancora la testa proprio nel frullo. Perché ho appena fatto, penso, la cosa più grande per me finora, cioè un concerto con un'orchestra, che è stato il concerto dedicato ad Alla tutta la vita, cioè un format creato da Phonoprint, quindi sono ancora molto in confusione perché è stato bellissimo e quindi mi sento davvero fortunata di poter avere tutte queste opportunità. Poi per me è stato molto strano perché è tutto iniziato per caso e sto cercando di non pensare troppo a quello che veramente è, altrimenti vado nel panico, diciamo. Quindi mi sto davvero lasciando un po' trascinare, ecco, dagli eventi. So che sembra strano detto così, però sono felice, tutto molto bello al momento, ma forse perché è proprio all'inizio, quindi c'è questa carica proprio iniziale. Sì. E invece il 3 marzo è uscito Cenere nel vento. Che canzone sì. è? Vuoi raccontarci un po' di cosa parla, sì, eccetera? Certo. Allora, un brano in realtà è uscito sì il 3 marzo, però è un brano vecchio perché l'ho portato al Bologna Musica d'Autore. Infatti io nel 2021 ho partecipato a questo Showcase Festival, sempre organizzato dagli studi di Phonoprint, che si chiama Bologna Musica d'Autore, e lì ho portato 3-4 brani, tra cui questo Cenere nel vento, che poi chiaramente è stato rielaborato, insomma, ha visto molti abiti prima di uscire. Un brano che è stato prodotto da Pietro Giolito e Claudio Adamo, è l'unico brano, insomma, in cui anche ho scritto assieme a un'altra persona, che è Renato Stefano, e diciamo che all'inizio ho fatto un po' di fatica ad accettarlo, ecco, perché per me è strano. Non ho mai lavorato effettivamente con delle produzioni di altri, però è stato un esperimento, quindi alla fine abbiamo detto beh, funziona, facciamolo uscire, perché poi se li si tiene troppo nel cassetto ormai non li si fa più uscire. Sì, è un brano che parla un po' della fragilità dei rapporti, cioè io avevo letto un racconto di Caro Figlio contenuto in questa raccolta che si chiama Passeggeri Notturni, e da lì mi è venuta un po' l'idea per scrivere il brano. Alla luce di questo, come riesci a conciliare il tuo personaggio di cantautrice con la tua personalità più privata e normale? Diciamo che non scindo ancora tanto queste due personalità, un po' forse per scelta, un po' perché sì, magari ho appena iniziato, devo ancora bene capire come orientarmi in questo mondo musicale, quindi io mi sento di dire che sono semplicemente me stessa, anche nella musica, diciamo. Questo in realtà c'è anche un lato non tanto positivo per me, perché se uno magari si crea un po' un personaggio in qualche modo schermato e un po' più protetto a livello psicologico, dico. Sì. Invece così io proprio me la sto vivendo davvero in prima persona, sono sempre io, sia quando mi approccio magari alla scrittura dei brani, ma anche sui live, sul palco, infatti a volte magari un po' imbarazzante. Però per adesso non riesco a fare in altro modo, diciamo. L'ultima domanda che ti faccio è se hai qualche data in programma, qualche esibizione live, tour magari. C'è un tour in programma con Panico Concerti. E niente, adesso ho già un po' di date che però sono in aggiornamento. La prima è domani, aiuto. Quindi domani 8 marzo. L'8 marzo. No, in realtà sono molto contenta perché è un concerto per l'8 marzo, quindi c'è tutta la lineup femminile. Però è il primo live che faccio in full band con anche il batterista, perché per adesso mi sono sempre esibito solo con il bassista, quindi insomma domani mettiamo per la prima volta alla prova questa cosa. Poi ci sono alcune date a Ferrara, Modena, Urbino, Livorno, però in aggiornamento. Adesso non vedo l'ora almeno di fare questa cosa, perché poi il mio obiettivo era quello, era il live di tutto il resto. Quindi ti aspettiamo anche a Bologna. Bologna dovrebbe essere aprile, quindi ci vediamo là. Sì, okay. Assolutamente, non mancate. Esatto. Bene, grazie mille Lilli. Allora, ascoltate il nuovo singolo che è uscito appunto il 3 marzo, cioè Cenere nel vento. Ringraziamo di nuovo Lil per essere qua. Grazie Lilli. Grazie a voi, a tutti voi, a te Giulia anche.